Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sosso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Orgoglioso de estar. Orgoglioso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Io metabolizzo tutto, quindi vado avanti assolutamente sereno. Dunque forse non avete capito, proviamo a ripetere che io delle vicende societarie non ne parlerò mai per la durata della mia vita. Sulle vicende societarie non faccio commenti. Buona l'apertura, c'è Kurtic, la mette in mezzo, Berardi, quadripletta! Non ci sono più parole, 4 gol in 47 minuti al Milan. Viva la rivoluzione! In questa democrazia non c'è listo che se lucra esprimendo la nostra classe sociale. No, non posso parlare adesso, scusi. Non può rilasciare. No, lo so, mister, solo una domanda. Se domani arriva. Niente, scusi, deve chiamare il mio management. Ma domani arriva in Italia, solo questo. Le due rivoluzioni in tre mesi sono tanta roba anche per Milano, eh. A novembre viene soppressa con l'arte della diplomazia quella di Galliani, ma a gennaio la pasionaria, Lady Barbara, ha fatto saltare la panchina del Parco Rossonero. Pierluigi Pardo, via senza troppe cerimonie Max Allegri, il più reazionario dei livornesi, attaccato con lo scotch a quella poltrona peggio di tanti politici. Vabbè, però è anche vero che Allegri è stato pregato in ginocchio di rimanere in estate, insomma. Guarda, per da me ragione, Putin Galliani era stato pregato per me ha ragione Buffon, che ieri ha detto in un popolare programma di Italia 1 che l'errore di Allegri è quello, è solo quello, cioè sì, l'estate sì. aveva, ma io gliel'ho anche detto così informalmente, ho espresso il mio punto di vista già in estate a Monaco di Baviera, prepartita dell'Audi Cup ad Allegri, cioè che comunque lui a Roma avrebbe trovato una situazione ideale, un gruppo umano e una piazza pronta ad accoglierlo veramente con enorme entusiasmo. Sì. E invece al Milan sarebbe rimasto da sopportato. L'abbiamo detto in contemporanea. In contemporanea senza neanche metterci d'accordo, perché la parola è questa: sopportato. Ma la sopportazione, come la pazienza, ha un limite. E Rasputin Galliani questa volta obbedisce, si arrende anche sul nome del sostituto, non il delfino Pippo Inzaghi, ma il professore olandese, da lui mai così ben visto, da lui, da Allegri non ne parliamo, dalla tifoseria qualche volta, il professore olandese detto anche Obama. Alberto Costa, inviato storico del Corriere della Sera, di rivoluzioni, soprattutto rossonere, ne ha viste un sacco. Sì, ciao. Ciao. In effetti qualcosa ho visto. Questa è una delle più clamorose, no? Sì, una delle più clamorose e anche una di quelle, secondo me, peggio gestite nella storia del Milan, perché a questa soluzione si sarebbe dovuti arrivare già alla fine della scorsa stagione. Certo. Quando Galliani, devo dire, più evidentemente con più poteri del mago Zurlì, era riuscito a convincere, o forse a prendere per sfinimento Berlusconi, convincendolo a tenere Allegri, che aveva il contratto in scadenza. Resta sempre il grosso interrogativo a chi gliel'abbia fatto fare ad Allegri. Certo. Nel mio pezzo di oggi ho citato un'intervista dello stesso Allegri del 7 agosto, quando il Milan era in tour negli Stati Uniti alla Gazzetta dello Sport, dove lui spiegava che ha seguito l'istinto, dice: nella mia vita ho sempre seguito l'istinto, quando non l'ho fatto ho sbagliato. Beh, diciamo che stavolta l'ha tradito anche l'istinto, insomma. Sì, però scrivi anche nel tuo pezzo di oggi, che abbiamo tutti letto attentamente, che lo stesso Galliani ha ammesso che non Allegri non ha mai avuto una cultura da Milan. Sì, diciamo che questa è una così colloquio con Galliani, un concetto che lui mi ha ripetuto un paio di volte, non è una frase recente, ma diciamo che risale alla stagione scorsa. Sì, beh, certo, c'è una contraddizione in questo, però bisogna anche dire che Galliani con Allegri ha sempre comunque avuto un ottimo rapporto. C'è stato un solo vero momento di cui io sono stato testimone oculare, in cui lì temevo che addirittura si arrivasse, si sfiorasse la rissa, ed è stato a New York 2 anni fa, quando il Milan in tournée perse in un amichevole, perse 5-1 con Real Madrid dopo aver chiuso il primo tempo 1-1. Allegri cambiò l'intera difesa e Galliani, con una mazza da baseball in mano che gli avevano regalato, che roteava pericolosamente, era così inferocito nei confronti di Allegri per la figuraccia, che lì veramente ho temuto che ci potesse essere un esonero clamoroso in diretta. Poi la cosa si era composta, i due sono sempre andati abbastanza d'accordo, pur rendendosi conto Galliani che dello spirito Milan, di che cos'è il mondo Milan, la cultura Milan, Allegri abbia sempre capito molto poco. Sì. Certo, un discreto numero di nemici se li ha fatti. Ora non ti credo, non ti chiedo i nomi di quei tre che scrivi oggi, Alberto Costa, ieri, tre di costoro, cioè dei giocatori, incluso uno certamente tra i colpevoli del tracollo di Reggio, ne hanno approfittato per esultare in maniera plateale la notizia della cacciata. Montari si è messo a piangere commosso, Balotelli aveva la faccia scura, quindi presumibilmente non è lui, potrei azzardare lo sciarino, ma in fondo, vabbè, Seedorf, Ronaldinho, Inzaghi, Pirlo, Gattuso, Antonini, Amelia, Ambrosini, l'elenco è lungo, di quelli che sono stati così allontanati. Beh, Antonini messi da parte bene, da no? Antonini l'ha presa bene, c'è stato questo tweet della l'ha presa bene, ha toccata piano la signora benedetta, sì. Come direbbe Luciani, la signorina benedetta che ha twittato e vai godi, sì, ma vieni. Proprio... però devo dire che alla fine è meglio questo dell'ipocrisia, poi sì, ma non c'è dubbio, però non c'è dubbio, però alla fine è meglio questo piuttosto di chi ha la faccia di bronzo di dire che va sempre d'accordo con tutti in realtà, quindi questo attenuante poi non è stato il massimo dell'eleganza, no. Nei confronti soprattutto in questo momento di uno sconfitto, perché in questo momento lo sconfitto è Allegri, al quale auguriamo ovviamente di riprendersi, però sicuramente insomma il pensiero è stato espresso. Allegri qualche nemico se l'è fatto, del resto insomma aveva anche i suoi verissimi. Certo, io voglio chiedere un'ultima cosa al professor Costa. La chiedo anche agli ascoltatori, 800 24 00 24, come sempre. Alberto, parliamo invece del futuro. Seedorf che arriva, poco fa Tassotti ha detto a competenza e personalità, credo che Tassotti sia in uscita anche lui dal Milan alla fine di questa stagione, anche perché Seedorf si porta questa congrega di ex giocatori, nessuno dei quali ha particolari trascorsi da allenatore. Stam, Crespo, si parla di David, si parla di Kluivert. Che succede al Milan? Ma sì, ripeto, questa rivoluzione si completa con qualcosa di inedito. Qui noi, insomma, io ho vissuto anche qui in prima persona le due intuizioni storiche di Silvio Berlusconi, quella di Sacchi e soprattutto di Capello, perché ricordo come se fosse oggi a Milanello le perplessità espresse a noi giornalisti di Franco Baresi, uno che parlava ogni 3 anni, e di Roberto Donadoni sulla promozione di Capello allenatore della prima squadra. Però all'epoca ebbe ragione in maniera clamorosa il presidente. Ora questo Berlusconi non è più quel Berlusconi. Devo dire che Seedorf, come carisma, come conoscenza del complicato mondo del Milan, non ha avversari, è uno che sa il fatto suo. Mi pare di avere capito che lui intenda impostare tutta una struttura, un modo di lavorare, diciamo, per esemplificare, alla Ferguson, con 2 o 3 allenatori in campo, quindi che lavorino in maniera specifica sui diversi reparti, e lui fare una specie di gestore, di supervisore. Io mi aspetto anche che ci possa essere uno, tra virgolette, scontro, perché qui già abbiamo Barbara Berlusconi e Galliani, ma non vorrei che si arrivasse anche a qualche invasione di campo in tema di mercato. Non dimentichiamo che Seedorf ha un rapporto diretto col presidente. Certo, la mia privilegiata. Certe scelte di mercato potrebbero anche confliggere con magari con i piani di Galliani, però questo, diciamo che forse è un futuro ancora un po' futuro anteriore. Prego. Alberto, sì, l'unica cosa certa è che ci divertiremo. Grazie. Prego. Ciao. Tutto sconvocati. Siamo arrabbiati ci siamo arrabbiati tutti, insomma, non perché poi alla fine paga l'allenatore, ma le colpe sono qua, le colpe sono di tutti, per primi noi che eravamo lo staff tecnico, voglio dire, siamo i primi responsabili sicuramente della situazione. Questo era Mauro Tassotti, 34 anni al Milan, che poco fa ha tenuto conferenza stampa, sua prima e unica da allenatore, da primo allenatore. Domani dirigerà la partita con lo Spezia, Coppa Italia, con Seedorf in tribuna, perché arriva prima, e poi si farà da parte. Credo che anche Tassotti se ne andrà a fine stagione, dicevo, Pier. Tu come vedi questa idea di Seedorf, questa totale rivoluzione, questo arrivo di... appunto di ex rossoneri, da Stama, Crespo ai probabili David Klaivert, anche se su questi nomi io insomma ci credo poco, però come la vedi questa struttura che credo Seedorf vuole creare? Ma insomma, Berlusconi quest'estate ha fatto capire che avrebbe, alla fine si è piegato al pressing Galliani, no? Sì. E ha dato un'ultima possibilità ad Allegri. Oggi evidentemente immagino che il suo pensiero sia in qualche modo anche rappresentato da Barbara, ha deciso di cambiare, ha deciso che si sarà detto, ve l'avevo detto, che non era la strada, e adesso si cambia. Io credo che un presidente entusiasta, anche se chiaramente non saranno più i tempi, sono tempi comunque di austerity, non aspetto degli investimenti monster da parte del Milan, però sappiamo che nelle scelte di Berlusconi, in questi 25 anni comunque straordinari di storia rossonera, l'elemento dell'entusiasmo del presidente è un elemento fondamentale. Cioè, ci sono stati dei momenti nei quali Berlusconi degli investimenti li ha fatti, e li ha fatti perché si fidava completamente, aveva un'empatia totale e assoluta con lo staff tecnico. Questa cosa con Allegri non è successa. Ibrahimovic è stata un'eccezione, ed è stata un'eccezione all'inizio, e comunque fu una grande opportunità, perché non costò nemmeno tantissimo dal punto di vista del cartellino. E questa cosa qui adesso ovviamente io me l'aspetto. Cioè, sì. io penso che ci siano nettamente, con tutti i budget, con tutte le restrizioni di budget che ci sono oggi, perché è ovvio che il Milan non è il Paris Saint Germain o il Manchester City in questo momento, però con tutta l'austerity io sono convinto che adesso Berlusconi avrà più voglia di investire. Qualcuno glielo compra di quello che poteva succedere. Sì, questo vale, ma non per tutti i presidenti, ricordo anche campagna acquisti di Moratti con allenatori che non gradiva, faccio un nome a caso, Gasperini, all'insegna dell'austerità più totale. Poi se c'è un altro allenatore invece scelto da lui che gradisce di più, magari i giocatori glieli compra. Questo è accaduto anche da altre parti. Tra poco parliamo anche di Inter, perché ho un sacco di messaggi che vogliono, giustamente, gli ascoltatori che vogliono due parole sullo ostracismo, l'ostilità feroce degli arbitri nei confronti dell'Inter. 1-1 ieri con il Chievo, questo è un altro tipo di rivoluzione, sempre di novembre, che procede un po' più flaccida quella dell'altra parte di Milano. Avanti pianissimo, che vuol dire indietro sul fronte dei risultati. Giorgio Prato, buongiorno. Ciao cari amici. Ciao. È un piacere parlare con voi, in particolare con Pierluigi, che per il quale una simpatia proprio a livello di pelle, è bravo e simpaticissimo. Grazie, sì, grazie. Sì, è vero. Guarda, volevo dire una cosa sulla Fiorentina, perché a mio parere un po' troppo frettolosamente alcuni media l'hanno tolta recentemente dalla lotta per la Champions. Io credo che invece, a mio parere, con l'arrivo oramai imminente di Matri e con Anderson. La sua voglia di, ecco, Matri e Anderson, che anche Anderson secondo me può essere un giocatore molto importante per la Viola. Certo, ma di Matri, guarda, mi intriga molto la voglia di riscatto, e credo che sia importante per il nostro tipo di gioco, con tutti i palloni che buttiamo noi in area di rigore, sia un giocatore importante. Con il prossimo recupero oramai imminente anche di Gomez, che può anche giocare insieme a Matri, anche se non è facilissimo, e insieme a una nuova solidità difensiva, che è dovuta anche alla crescita, devo dire per me inaspettata, che ha avuto Neto, aveva ragione Montella in questo, io credo che la Fiorentina potrà essere, e come, protagonista della lotta per il secondo e soprattutto per il terzo posto. Intanto, io vi abbraccio e ascolto per la grazie volta. Grazie a te, Giorgio. Faccio rispondere al tuo idolo. Sì. Ma io penso innanzitutto che nel valutare il campionato della Fiorentina fin qui bisogna considerare il fatto che non ha avuto a disposizione il grande acquisto dell'estate, quindi è esattamente la stessa cosa che sarebbe successa alla Juve senza Tevez o al Napoli senza Higuain, e questo secondo me è un'ulteriore medaglia per il campionato che sta facendo la Fiorentina, perché la classifica che ha ottenuta senza il grande investimento di quest'estate ha ancora più valore. Sul discorso dell'arrivo di Matri sono convinto, sono intrigato anch'io. credo che qualche problema, onestamente, la coppia Matri Gomez ce lo possa avere. Matri Gomez eventuale, vario ed eventuale, sì, appunto, perché appunto. E non vorrei quando che lo vedo in campo ci credo fosse rettato non soltanto dall'emergenza ma anche da qualche ulteriore problema per quanto riguarda Gomez, che sta diventando una vera e propria un tormentone, novela, no? Questo rientro che non arriva mai. Idealmente serviva un giocatore capace di fare la prima e la seconda punta insieme, come Di Natale. C'era stata l'idea Cassano, ma ci sono problemi di carattere ambientale per cui non arriverà. Sono molto curioso, io penso che Matri farà meglio che al Milan, anche perché ci vuole poco, e sono convinto che la sua difficoltà al Milan fosse soprattutto di natura psicologica. Allora, Seedorf alle 16 fa conferenza stampa in Brasile, saluta tutti, prende l'aereo e arriva in Italia, domani sarà, ripeto, questa è una notizia che sto leggendo ora, 16 conferenza stampa, poi prende il volo da San Paolo a Milano e sarà in tribuna a vedere il Milan domani sera. Marcello da Piacenza, poi sentiamo Mazzarri. Sì, buongiorno, volevo fare complimenti per la trasmissione. Grazie. Perché siete veramente bravissimi. Grazie. E vi seguo grazie sempre. Io vorrei spezzare una lancia a favore di Allegri, perché alla fine ci è detto tante volte, però comunque ogni anno gli tirano via sempre, gli vendono sempre i migliori giocatori, alla fine non è mai fatto, tranne a parte quest'anno, che secondo me se fosse rimasto sarebbe risalito, è sempre andato bene, benino, alla fine è riuscito sempre a... Ma è andato bene o, bene o benissimo? Se dobbiamo spezzare una lancia, spezziamola pure. Sul fatto che sarebbe risalito io non sono così convinto, perché mi sembra che la dimostrazione domenica è stata la dimostrazione che questa squadra avesse ancora dentro pochissimo da dare al suo allenatore, a questo allenatore quantomeno, quindi non sono così convinto, anzi secondo me quest'anno è pesato anche molto tutto il putiferio che c'è stato in società, e quindi già non è partito benissimo, e dopo comunque alla fine sempre agli ottavi di Champions League con l'Atletico Madrid, lì è una partita secca. Sì, però ha ragione Pardo, cioè l'errore sta nella genesi di questa stagione, cioè il peccato originale sta in Galliani che convince Berlusconi, che si fa convincere, in Allegri che rimane attaccato con lo scotch, ripeto, a quella panchina, però lo scotch si strappa e finisce così, era quasi inevitabile, quindi sono d'accordo sul fatto che, e anche con quanto ha detto prima Alberto Costa, questo cambio andava fatto in estate, perché il Milan avrebbe risparmiato tempo nella costruzione futura della squadra. È come un matrimonio che provi a sedere insieme, sì, che non funziona con l'affetto, ma non con l'amore, no? Questo è quello che è successo, insomma. La passione era finita da tempo, e oltretutto la passione era soltanto la parte della componente gallianiana della società, oltre che di molti giocatori, perché non bisogna dimenticare che comunque la squadra quest'estate si è spesa. Infatti io non riesco a pensare a un Milan che gioca, a parte io non ci ho mai creduto a queste cose, che giocare contro l'allenatore per me è una cosa assurda, ma anche che si impegna poco, perché poi alla fine l'altro giorno Allegri è naufragato con i fedelissimi, ma certo, Zapata, certo, che problemi può avere con Allegri? Ma l'ha fatto giocare sempre, Zapata quindi, di sicuro quindi... non è in quella lista dei tre di qui sopra, di Alberto Costa, che sono magari suggestioni anche eccessive, però non c'è dubbio sul fatto che anche una parte della squadra con Allegri, non di questa squadra con Allegri, non stesse più proprio benissimo. Abbiamo la borsa, Dario ci aspetti, Dario da Milano, poi abbiamo Pallone d'Oro, poi dobbiamo parlare dell'Inter, state con noi. Così, è piaciuto per Allegri, come è andata? Assolutamente sì, assolutamente sì, soprattutto dal lato umano, mi dispiace molto, ma questo è il calcio. Grazie, sì, ho parlato con la squadra. Scusi, no, adesso mi lasciate andare davvero. Grazie. Scusate, ma stiamo zitti. Convocati. E Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Maria Letizia invece, romana romanista, scrive via sms 349-238-6666, romana e romanista, non finisco mai di ringraziare Galliani per aver trattenuto Allegri. Dario da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione, grazie. E grazie per la convocazione. Grazie a lei di aver risposto, dica. Senta, volevo fare due considerazioni su Allegri. Allora, premetto che io sono un tifoso milanista che frequento lo stadio da circa 20 anni. Credo che Allegri si sia di fatto auto-eliminato dal Milan perdendo uno scudetto con Ibrahimovic. È stato l'unico al mondo a non vincere uno scudetto con Ibrahimovic, non dimentichiamocelo. Sì, questa è statistica. Statistica, ma sono anche fatti. Tra l'altro, è vero, la statistica sono fatti, cioè è un dato oggettivo, cioè non, è un dato indiscutibile. Però non lo so tra se si è bruciato lì. Ma direi anche che non ha espresso un gran bel gioco. Io di allenatori al Milan ne ho visti, direi che Allegri non ha mai lasciato la sua impronta di gioco, non ha mai dato un Milan, non dico esaltante, ma quantomeno che sapesse giocare a calcio, ecco, che facesse tirare la palla. Quindi sì, ma più che altro Allegri non è mai entrato esattamente nelle grazie del presidente, poi sì il gioco, poi sì quello scudetto perso, però c'è anche uno scudetto vinto al primo tentativo e non è che al Milan ne abbiano vinti tantissimi negli ultimi anni, vista la ben nota vocazione europea. Comunque tutto vero, ma io credo che, insomma, che il rapporto si sia consumato non solo per quello scudetto perso, forse non sia mai realmente nato. Invece adesso voglio parlare di un altro pallone. Name is El Barandissimo Cristiano Ronaldo. Muito feliz. Obrigado a todos os meus companheiros do Real Madrid, da seleção, toda a minha família que está aqui presente. É um orgulho enorme. As pessoas que me conhecem sabem o sacrifício que foi. Também mencionar o nome do Eusébio e bem, e do Mandiba também, que foram pessoas importantes para mim. A minha namorada está aqui presente, minha mãe, o meu filho está aqui. Primeira vez que o pai recebeu uma bola de ouro. E se esqueci-me de alguém, peço desculpa, porque é um momento muito emocionante para mim e eu não consigo falar. Obrigado a todos. Fly è la canzone preferita del Pallone d'Oro, molto lirici siamo in questo momento. Però Pier, insomma, l'abbiamo detto per mesi, possiamo risparmiarci il sit-in in piazza Reggiolo come avevamo promesso ad Ancelotti in caso di sconfitta, ma poi per fortuna Rio Ferdinand non girerà nudo per le di Manchester, e questo è già tanto. L'avrebbe fatto in caso di risultato diverso. È strameritato, poi in assoluto, se si fosse votato, così si votava fino a 3-4 anni fa, in maniera un pochino più specifica sui successi della stagione, forse l'avrebbe meritato Ribéry, perché Bayern ha dominato. Però, visto che negli ultimi anni il meccanismo è stato il miglior giocatore dell'anno, è giusto, è stragiusto che abbia vinto Cristiano Ronaldo. Non ci sono discussioni. È chiaro che ha influito molto nella votazione l'ultimo periodo, le perle di Cristiano Ronaldo, per esempio nello spareggio contro la Svezia, il fatto che Messi sia calato e abbia avuto gli infortuni in avvio di stagione, questo secondo me ha molto inciso nella, tanto è vero che c'è stato il famoso giallo del voto riaperto improvvisamente, sì. No? Mai del tutto confermato, ma il giudizio è giusto, è meritato. Credo che adesso siamo 4-2 per Messi nei palloni, nel pallone d'oro, ed è un risultato già più accettabile, diciamo, nella storia fra questi due grandissimi giocatori. Sicuramente Messi negli ultimi anni ha avuto qualcosa in più di Cristiano Ronaldo, ma sono due giocatori diversi. Per me una dialettica fra questi due è possibile, certo, non c'è uno, certo, Messi che è migliore dell'altro, certo, a prescindere, certo. Però il risultato rispetto a questa stagione per me è giusto. Adesso vorrei la Champions a Ibra, e l'ho dichiarato molte volte, poi sarei contento, visto che nessun italiano può vincerla. Paolo Condò della Gazzetta dello Sport, ciao! Buongiorno, ho appena spento l'accendino con la musica che avete messo, avevo acceso l'accendino e ondeggiavo. Dai, io avrei messo un'altra cosa, ma a Cristiano Ronaldo, che in fondo è un cuore tenero, perché ieri abbiamo visto bagnare di lacrime quel palco ai piedi di quel farabutto di Blatter che l'aveva preso in giro, eh? Io avrei dato un pugno, fosse stato. Mi sembrate, scusate, conoscete la stima che ho per voi. No, sì. mi dissocio. Come si dice sempre prima di dare la tramvata. Esatto. Mi sembrate molto ansiosi di salire sul carro del vincitore. No. Mi sembrate molto ansiosi di questo. Allora io vi chiedo, Paolo, ti faccio sentire una cosa. In base al discorso che ha fatto mio fratello Pierre dal 1900 e adesso vado a spanne, dal 1980 al 2000 Robert De Niro avrebbe dovuto sempre ricevere il premio Oscar per il miglior attore. Non avrebbe avuto senso fare la chi se ne frega dei film che sono stati girati quell'anno. Era incontestabilmente, o magari 15 volte lui e 5 volte Al Pacino, va, facciamo questa divisione. Sì, e non c'era nessun bisogno di fare la notte degli Oscar. Sì, Paolo, erano i due più grandi attori. Però le regole del gioco non le abbiamo cambiate io e Pardo. Le regole del gioco non sono cambiate nominalmente. Scusa, perché nella scheda che noi riceviamo, il primo parametro sono il comportamento che ha avuto quel giocatore nel corso dell'anno. E nel corso dell'anno, poi, per carità, Ronaldo, figurati se metto a discutere il fatto che Ronaldo e Messi siano i due migliori giocatori del mondo, ma nessuno dubita questo. Però voi, dicendo che non ci sono discussioni, non poteva che vincere Cristiano Ronaldo e così via, siete i giudici, secondo me naturalmente estremizzo perché è divertente devi. Dibattere su questo, siete i giudici di un balletto che alzate le palette. Sì. Il calcio è un'altra cosa. Il calcio alla fine è determinato da un risultato in base al numero di palloni che finiscono oltre una linea di porta. Certo. Vincere è la parte centrale del business, come ho scritto oggi. Sì, non è una sì. parte secondaria. Il Real Madrid quest'anno, le ha beccate dal Barcellona in campionato, le ha beccate dal Borussia Dortmund in Champions League, le ha beccate dall'Atletico Madrid in Coppa del Re. E la grande prestazione di Ronaldo, secondo me decisiva poi con la storia della riapertura dei termini di voto nel playoff contro la Svezia per accedere al mondiale, è arrivato al playoff perché la Russia di Capello aveva battuto il Portogallo di Ronaldo nel girone di qualificazione. Questo è vero, doveva vincerlo Iniesta nel 2010 e che no, è Snyder secondo me. Io ho votato Snyder, appunto. Sì. Io cerco di mantenere una coerenza. Io ho votato Snyder nel 2010, Messi nel 2011 che aveva vinto Champions League. E Ribery ora. Ho votato Iniesta l'anno scorso per la vittoria dell'Europeo e quest'anno ho votato Ribery. Sì, però il pallone d'oro in sé, Paolo, è una contraddizione in termini. È il premio individuale nel gioco collettivo per eccellenza. Dunque, già di per sé è una contraddizione in termini. Allora, cioè, in questo caso viene dato al più forte del mondo in questa stagione. Si conta il numero dei gol, si conta l'incidenza di questo giocatore nella sua squadra. Se conti il numero dei gol, Beckenbauer e ti lascio stare Cannavaro. E ti lascio stare anche Beckenbauer Zammer. Non avrebbe mai vinto. Anche Mattias Sammer. Questo è vero. No, però, ma voglio dire, su Mattias, allora, secondo me il 96 di Mattias Sammer fu una forzatura. Fu volerlo dare a tutti i costi, anche perché non c'è, anche in quella stessa Germania, se non lo davi a Sammer dovevi darlo a Birov. Sì. Perché era Biro che aveva fatto il gol. Sì. E insomma, con tutto il rispetto per il nostro amico Oliver, dargli il pallone d'oro forse era un po' troppo. È chiaro che Sammer o prima di lui anche Igor Belanov furono due esagerazioni di un certo tipo di discorso. Ma secondo me Ribéry quest'anno non era assolutamente un'esagerazione. Perché io sono d'accordo, l'ho detto una volta. Dal punto di vista dei trionfi l'avrei dato da Ribéry, dal punto di vista dei trionfi, però mi pare che sono cambiati. È cambiato il metodo, questo mi sembra. Io apprezzo molto e condivido il tuo voto, che condivido completamente. La filosofia, c'è una filosofia dietro questo voto. Non sono mica pazzo a dire che Ribéry è più bravo individualmente di Cristiano Ronaldo, di Messi. Però Paolo, c'è una filosofia nella quale l'importante è vincere. I risultati contano. Tu hai seguito questa filosofia, che però è in controtendenza rispetto ai criteri generali, perché hai votato Snyder reduce dal triplete. Dei giornalisti. Se tu scorpori le tre gambe della votazione, cioè CT, capitani, giornalisti, per i giornalisti ha vinto Ribéry, come aveva vinto Schneider nel 2010. Certo, aveva fatto triplete e Messi non vinse nulla. I giornalisti, non tutti naturalmente, ma nella grande maggioranza, perché avrebbe più di 100 punti di vantaggio Ribéry, i giornalisti sono affezionati all'antico, al vecchio pallone d'oro, al vecchio pallone d'oro che consentiva, quando votavano solo i giornalisti, di avere tanti candidati e tante possibilità di assegnare a tanti giocatori il pallone d'oro. Cioè, nel 2006 Ronaldinho sarà stato più forte individualmente di Cannavaro. Ci saremmo arrabbiati se l'avesse vinto Ronaldinho? Ci siamo arrabbiati perché Blatter non ha consegnato la Coppa del Mondo all'Italia. Saremmo stati furibondi se non l'avesse vinto Cannavaro o un altro azzurro nel 2006. Secondo me i francesi e i tifosi del Bayern hanno tutto il diritto di essere furibondi oggi per il fatto che non l'ha vinto Ribéry o un altro del però Bayern. Ripeto, con chi guida il carrozzone, cioè con Blatter, che ha detto chiaramente il miglior giocatore del mondo. Io non so per quale motivo ci sia stata questa questo spostamento su una diarchia che renderà molto più noioso. Sono d'accordo. Questo voto, questo trofeo, fino ad affossarlo. Difatti Platini ha detto che se dovesse diventare lui presidente della FIFA cercherà di cambiare. Certo. Nuovamente certo. I criteri di questo, perché io trovo molto più bello che possano essere nel corso di 10 anni 7 giocatori a poter vincere il pallone d'oro e a fregiarsi di questo titolo. Sì. Sempre i soliti due, che ovviamente sono i due più bravi, ma sono anche i due più mediatici. Trasforma tutto in un reality, no? Il fatto allora Ribéry, siamo d'accordo che anche dal punto di vista tecnico è uno dei primi 5-10 giocatori al mondo, non credo ci siano dubbi su questo, no? Quindi non stiamo parlando appunto di un Sammer della situazione. No, esatto, ecco. Esatto. Se uno come Ribéry dopo un anno come questo non vince il pallone d'oro, è chiaro che non lo può vincere più nessuno che non sia uno di quei due. Su questo se non, ribadisco, se non ha vinto Iniesta nel 2012 vuol dire che non può vincere nessuno. Detto questo, il meccanismo è cambiato, sono d'accordissimo con te, a me già annoiava prima, figuriamoci adesso, mi sembra veramente... Sì. Però ecco, diciamo che nella noia di questa diarchia fra Cristiano Ronaldo e Messi, sono contento che l'abbia vinto Cristiano Ronaldo quest'anno. No, beh, ma su questo voglio dire, Messi non aveva il numero sufficiente di partite per essere sconfinato quest'anno. Perché si è fatto male col Paris Saint-Germain il 2 aprile e da lì in poi è stato un calvario... Certo. È stato da una parte un calvario continuo e dall'altra, secondo me, lui a un certo punto ha tirato i remi in barca e ha cominciato a pensare a preparare il mondiale che infatti, è la cosa fondamentale in questa stagione. Secondi, questo soprattutto perché, visto che questo tema della diarchia ormai è un tema che c'è, nel senso che vuoi bene mamma o papà, tutto il mondo si interroga su questa cosa, io sono di quelli che pensa che non ci sia sproporzione fra i due, cioè io penso che siano due geni diversi, che probabilmente Messi poi alla fine della cifra conclusiva della sua carriera avrà fatto di più di Cristiano Ronaldo, ma che non stiamo parlando di un numero uno e di un numero due, stiamo parlando di due numeri uno. Di due numeri uno, in cui è stato votato il migliore stagionale. Paolo Condò, Pierluigi Pardo, grazie a tutti e due. Ciao a tutti, ciao, buona giornata, ciao Pier, ciao Carlo. Pier, ci sentiamo domani, Senz'altro. Convocati. Danno un altro pallone d'oro a Messi e non lo danno a Cristiano Ronaldo. Premesso che a me il pallone d'oro non piace tantissimo come premio. In generale, però, io e Pardo andiamo a fare un sit-in in Piazza del Duomo a Reggiolo. Vabbè, posso venire pure io. Se potessimo unirci anche qualcosa di alimentare, visto che ho avuto il piacere. Si consiglia anche un ristorante. Non mancherebbe. Difficile, ma io penso che nell'ultimo 4-3 anni Ronaldo sempre sta lì e questa volta io credo che Ronaldo merece. È giusto premiare quello giocatore che sta 4, 5, 3 anni come il buono. Questo è importante. Allora, il primo per dimostrare che, per smentire Paolo Condò, non saltiamo ora sul carro dei vincitori, quello era un estratto del colloquio con Ancelotti che abbiamo avuto a questi microfoni qualche tempo fa, e il secondo poi l'avrete riconosciuto, Orai Pelé, che ha ricevuto il pallone d'oro alla carriera. Domenico, provincia di La Spezia, buongiorno. Buongiorno, avrei voluto intervenire ieri, ma è caduta la linea per Allegri, pazienza. No? Lei sì. Inter, se posso chiamarla così, no? Chiami come ha vuole. Detto che i meriti erano anche di Allegri perché aveva vinto il campionato. Ma io francamente che un allenatore in 4 anni e mezzo non faccia giocare una squadra con un'identità ben precisa, la identifico solo in Allegri. 3 e mezzo. Tre e mezzo per la cronaca. Tre e mezzo, sì, ma a quei livelli non, il Milan non ha mai giocato da squadra. Ora io le parlo da opinionista, da bar, intendiamoci. Ma sinceramente il Milan non ha mai avuto un'identità da squadra e nessuno penso che possa smentirmi in questo senso, perché al momento che c'era, che ha vinto lo scudetto, era Ibrahimovic che al momento che lanciavano la palla la buttava dentro. Ibrahimovic è un giocatore che esige quel tipo di gioco, che esige che ha un però, certo tipo di caratteristiche. Certo, ma dopo, se posso interromperla, sì. E non è che il Milan abbia chissà che cosa cambiato e giocato da squadra, io non l'ho mai visto giocare da squadra. E poi i risultati, francamente la rincorsa dell'anno scorso era perché dietro la Juve praticamente non c'era nessuno. Però se diciamo una volta che il merito è esclusivo di Ibrahimovic, un'altra volta che perché non c'era nessuno, insomma, io credo che i risultati nel complesso, la valutazione dell'esperienza di Allegri al Milan, 3 stagioni e mezzo, parla di uno scudetto vinto al primo colpo, di un secondo posto, ed è stata quella secondo me forse la stagione peggiore di Allegri, perché la squadra era da scudetto anche quell'anno, è stata battuta dalla nascente Juventus che poi ha instaurato il suo dominio. La scorsa stagione il Milan si è privato all'improvviso a inizio campionato dei due giocatori più forti, cioè Ibrahimovic e Thiago Silva, è riuscito comunque con la rincorsa che lei definisce in assenza di avversari, che io definisco frutto di un ottimo lavoro di tutta la squadra, Allegri compreso, ebbene è stata un'ottima stagione secondo me quella del Milan di Allegri l'anno scorso, e quest'anno non doveva neanche cominciare, secondo me non doveva neanche cominciare, perché il peccato originale, lo ripeto, è stato quello. Vorrei però, voglio anche di parlare di Inter, sentiamo Mazzarri ieri sera furibondo, come gli capita ad ogni allacciata di scarpe in questo periodo dell'anno, furibondo per la direzione arbitrale. Lì, scusate, cosa sarebbe stato quel gol lì? 2-1, aveva appena segnato. Quindi l'avevamo fatto il gol per sbloccare la partita. Sì, l'arbitro probabilmente. E questo sarebbe stato eventualmente se avessimo alla fine, trasformato il rigore. All'ultimo minuto. Quindi se ci fosse andata bene, cosa avremmo fatto? Il risultato come sarebbe non si stato? Sa, vedere se bisogna vedere. Se faceva gol sul rigore, ammesso che se avesse segnato. Era 2-1, penso, no? Sì, era 2-1, il gol era regolare, come sarebbe finita non lo sappiamo, ha ragione gli interlocutori di Mazzarri, non lo sappiamo, e comunque è finita 1-1, e a prescindere da questo vento contrario, da questa sfiga, mettiamola così, arbitral cosmica che sta guardando l'Inter negli occhi, resta un 1-1 in casa con il Chievo, che è un altro passo falso. Dicevo, rivoluzione d'autunno per Milano, questa rivoluzione mi sembra si stia inflaccidendo sempre di più, va avanti pianissimo in classifica, quindi va indietro l'Inter sul fronte dei risultati. Ora direte, io eviterei, ma io credo che anche i tifosi non abbiano tanta voglia di alzare questo paravento, che vale per la squadra, vale per Mazzarri, vale anche per la dirigenza, questo paravento reale, ma pur sempre di paravento si tratta, degli arbitri. Io continuo a pensare che Toir, insomma, sia tutt'altro che Attila sul fronte dell'aggressività, no? L'unico rumore che si sente in questo momento è quello dei torti arbitrali, credo che questo non faccia bene alla costruzione stessa dell'Inter. Graziano La Spezia, buongiorno. Buongiorno gente. Una considerazione veloce sull'Inter, intanto volevo segnalare i 71 pullman in partenza dalla Spezia per gli ottavi di Coppa Italia col Milan. Che mi 71? 71 pullman, saremo in 71 pullman. Però. Quindi insomma è per un evento da non perdere. Sull'Inter, io credo che siamo questi, io sono tifoso interista, siamo questi, quinto posto, non ero... Quando voi dicevate che Mazzarri era Remida, Alvarez non poteva essere così scarso, Jonathan non poteva essere così scarso come era la stagione precedente. Sì. Banalmente siamo questi, credo, che i torti arbitrali ci siano, è vero. il fatto che non faccia giocare due punte, forse lui lo sa meglio di tutti noi che non stiamo in piedi a centrocampo, tutta una serie di cose. Io farei così, da tifoso interista, e mi piacerebbe sentire un po' dai giornalisti e un po' dalla dirigenza: ragazzi, questi siamo, portiamo pazienza quest'anno, questi due anni. Ma io, Graziano, ma lei fa un discorso assolutamente sensato, al di là del fatto che Remiro lo dicevano gli interisti, no? Perché guardate come ha trasformato Alvarez, guardate come ha trasformato Jonathan, Nagatomo, posso andare avanti. In realtà Mazzarri ha fatto molto bene, ha giocato sulle emotività e su una grande condizione nella prima parte del campionato. Ora ha ragione lei, l'Inter è questa, ha ragione lei nel dire i tifosi sono disposti a portare pazienza, però sono disposti a portare pazienza, a camminare in salita, ma per arrivare dove? È questo che io credo i tifosi dell'Inter vogliono sapere, non tanto dove si arriverà questa stagione. Quest'Inter è da quinto posto e anche lì ha ragione lei, ma per quanto durerà l'Inter da quinto posto? Sarà sempre un Inter da quinto posto, da sesto, da queste posizioni o da queste sofferenze, oppure è in programma qualcosa di diverso? Ed è questa la domanda a cui si deve rispondere. Ovviamente non possiamo farlo noi, non potete farlo voi, però qualcuno dovrà pur farlo, no? Immaginate chi? Carlo, provincia di Padova. Sì, salve, buonasera. Io un piccolo appunto unicamente sul discorso pallone d'oro, va bene, non so qui a discutere di chi è primo, chi è secondo, va bene, è meritato Cristiano Ronaldo, l'ha meritato sicuramente. Il discorso invece riguarda il pallone d'oro dato a Sammer, so che prima ne stavate parlando. Allora, Sammer nel 96 ha vinto con la Germania la Coppa Europa, e c'è da dire che all'epoca il pallone d'oro era conferito unicamente ai giocatori del continente. Sì. Poi con l'allargamento, certo, agli altri giocatori dell'altra parte del mondo, è chiaro che poi non si può applicare lo stesso discorso per Ronaldinho. Ronaldinho lo vanno nel 2006, è sicuramente stato un ottimo giocatore. No, certo, ma Carlo, però vince la Coppa. Certamente, ma il discorso è, vediamo sulla base di quali criteri viene assegnato questo benedetto premio. Qui sono d'accordo con Pardo, che mi appassionava poco prima, mi appassiona molto meno ora. Cioè, se diciamo... Allora, come dice Blatter, perché l'ha detto lui, il criterio è il più forte giocatore dell'anno, punto e basta. Ebbene, se il dualismo è tra Messi e Cristiano Ronaldo, allora se questi sono le strette condizioni, non c'è dubbio, il pallone d'oro è finito nelle mani giuste. Abbiamo giornale radio, poi torniamo, abbiamo altro di cui parlarvi. State con noi, 800 24 00 24, numero verde. Convocati. Allora, altre notizie di oggi. Vi avevamo fatto sentire prima Tassotti alla prima e unica conferenza stampa da capo allenatore del Milan. Ha detto Allegri paga le colpe di tutti, come avete sentito. Ha aggiunto anche, questo non ve l'abbiamo fatto sentire, ve lo dico io, grandissimi giocatori sono diventati grandi allenatori, altri dopo due anni hanno smesso perché non era il loro lavoro. A Seedorf non mancano competenze e personalità, ha giocato fino all'altro ieri, in realtà fino a oggi, quando alle 16 farà la conferenza stampa di saluto al Botafogo come giocatore, andrà a fare allenatore da un'altra parte come il contratto gli consente. Ebbene, ha giocato fino all'altro ieri, non ho consigli, mi confronterò, lo ascolterò, conosce bene questo ambiente, se vuole conoscere le condizioni dei giocatori glielo dirò. Allora, andiamo a un altro allenatore che invece è in carica, altro che... Non nel calcio, ma nella squadra che in questo momento è l'unica a viaggiare davvero forte a Milano. Luca Banchi, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Ciao coach, si libera una poltroncina nel parterre del forum, eh? Allegri veniva spesso alle vostre partite. Non spessissimo purtroppo, perché ci conosciamo, ma i suoi impegni l'hanno tenuto spesso lontano. Credo che quest'anno sia riuscito a venire soltanto in occasione della partita con il Real Madrid, e come gli avevo preannunciato sarebbe stata una bella occasione per vedere soprattutto i nostri avversari più che Milano. La nostra squadra di allora in quel periodo non era certamente pronta a competere a così alti livelli. Spero che comunque, al di là di quanto gli è successo, possa avere altre occasioni per vederci all'opera quest'anno, perché è appassionato di basket. Sì, questo lo sappiamo da buon livornese. Hai un'idea su questa vicenda? Sì, ma me l'ero fatta già in estate, quando Max è rimasto ad allenare questa squadra. Tenendo fede, onorando il suo anno di contratto, si sa come vanno queste vicende nello sport, purtroppo i contratti spesso hanno il potere e la forza di dare autorità e autorevolezza a un giocatore o a un allenatore in particolare, quindi credo che lui per primo fosse consapevole della responsabilità che c'era nel guidare questa squadra in un momento così particolare, con un contratto in scadenza. Questo non ti toglie sicuramente la possibilità sul campo di far andare le cose in un certo modo, e sono andate purtroppo diversamente rispetto a quanto lui e tutti si augurassero, perché anche le ecatombe di infortuni a cui sono andati incontro certamente non li hanno aiutato, visto che l'organico comunque non era sconfinato. Dispiace che questa decisione sia arrivata dopo soltanto una gara, dall'arrivo di due nuovi innesti che magari avrebbero potuto dare alla squadra un'altra fisionomia in prospettiva del girone di ritorno, però ecco. Però non c'erano più le condizioni, Luca. Non voglio entrare nel merito, perché sarei parlerei di qualcosa che non mi compete. Ragiono soltanto da allenatore, nell'ottica di collega, anche se di un'altra disciplina, un altro sport. Mi permetto di dire che una squadra che ha lottato così a lungo per cercare di rinsaldare il proprio organico, dove palesemente hanno pagato i tanti infortuni, adesso che forse con un paio di nuovi giocatori c'era la possibilità, è un rammarico che l'allenatore perda il proprio posto, anche se alla luce di una prestazione non convincente. E non bisogna dimenticare poi che comunque il Milan, pur in una stagione così difficile, resta l'unica squadra italiana in Champions League, e questo insomma è un dato non da poco. Senti, ma parlare di quel seggiolino, non so se Allegri tornerà o andrà in gommone, non sarà comunque un problema riempirlo se Allegri non dovesse tornare. L'Armani sta diventando lo spettacolo migliore della Milano Sportiva, dicevo, ma io ti dico la verità, quando leggo il tabellino delle partite, il risultato vabbè lo so, prima di leggere i numeri relativi ai giocatori guardo quello relativo all'affluenza di pubblico, e mi sembra che quello sia il primo grandissimo risultato. Sta diventando qualcosa di importante l'Armani per Milano? Sì, credo l'Olimpia in generale per Milano è sempre stata qualcosa di importante. Certamente aiuta il fatto di non avere in città un'alternativa rispetto al calcio, diciamo Milano cestistica, gravita tutta attorno all'Olimpia, anche se poi sai bene come non sono lontani i tempi in cui in Eurolega c'erano 2000 persone a vedere l'Armani. Io questo sono stato avversario di Milano, appunto. Quindi lo so perfettamente. So anche che era una delle prerogative del club quella di cercare di rilanciare anche la squadra agli occhi dei propri tifosi attraverso, fin dall'estate, una campagna acquisti e una politica di comunicazione molto diretta, senza tante fronzoli, ma dicendo le cose come stanno. Ci siamo assunti le nostre responsabilità, abbiamo puntato su una squadra che forse non era quella dei sogni, non assomigliava al Dream Team del passato, però una squadra, ci auguriamo, molto performante per un campionato così livellato e competitivo, poggiando su un'ossatura rodata, perché ritengo che chiaramente adesso con Hackett, io, Hackett, Moss, Kangur, facciamo parte di un della squadra campione d'Italia, già rodato, sì, della squadra campione d'Italia in carica, e più aver mantenuto giocatori del calibro di Langford, Gentile e Melli, credo abbia creato la giusta sinergia tra cambiamento e recupero, ovvero una rottura rispetto al passato, un cambiamento anche magari per i tifosi, quelli un po' più intransigenti, anche difficile da sopportare, perché la rivale Siena, che trova espressione tecnica all'interno di questo nuovo ciclo. Non è un inedito assoluto, Luca, però mi sembra piuttosto Daniel Hackett abbia cambiato, più che tecnicamente, perché è ancora presto, abbia cambiato emotivamente la tua squadra. Mi sbaglio? Ma io penso che lui abbia semplicemente messo a disposizione alla squadra il proprio carattere. Per il resto credo che molto abbiano fatto anche gli altri, riuscendo a metabolizzarne molto velocemente la presenza. Poi la persona che è Daniel lo sappiamo, è un giocatore molto combattivo e è anche una personalità indomita. Questo spero che, mi auguro che abbia saputo contagiare un gruppo che però fino al suo arrivo comunque delle cose interessanti già le aveva mostrate. Senti, Brindisi è la prima nave corsara all'intertempo del campionato. L'altro giorno, parlando con Dan Peterson, dicevo: questo campionato mi dà l'idea di una nave importante che subirà l'assalto dei pirati. Sì. Brindisi, Cantù, ovviamente la nave importante è la tua. Brindisi, Cantù, Varese, Bologna, tutte queste. Sì, beh, ce ne possono essere altre, perché non parlare di Venezia o di Venezia, Roma certamente. Che sono delle legittime outsider, e perché non parlare di Siena? Siena è quella che detiene i vessilli, se vogliamo rimanere in termine marinaresco. Sono loro la nave importante, quella sul pennone più alto sventolano tanti trofei, certo, tanti vessilli, e io ho vissuto sulla mia pelle quanto sia difficile far abdicare i migliori, e difficilmente accadrà anche quest'anno. Noi arriviamo sì con diciamo la presentazione di essere la squadra favorita, ma purtroppo arriviamo senza trofei, mancano da tanti anni e niente quanto vincere insegna le squadre a farlo. Quindi noi dobbiamo scrivere ancora la prima pagina della nostra storia e il cammino sarà molto difficile e impegnativo. Considero validissimi i nostri avversari, ma gli do un ruolo un po' più importante del semplice outsider. Non per pretatti. Un'ultima cosa: tu prima parlavi di un Real Madrid che è considerato da Allegri di venire a vedere il Real Madrid perché Milano non era ancora pronta. Adesso mi sembra un po' più pronta. Questo è quello che gli scrissi io nel messaggio. Bravo, mi sembra un po' più pronta. È una squadra che ha taglia e profondità da Eurolega. Le Final Four sono a Milano. Pensate a quello o è qualcosa di troppo lontano al momento? No. Pensiamo ancora a come reperire i biglietti, quindi non ci sono problemi. Su quello abbiamo chiaro chi siamo, chi dovremo diventare nel minor tempo possibile, ma è realistico pensare che non saremo in grado di far altro che una buona figura in questo girone top 16. Ho detto in precedenza che l'idea di avere 14 partite top 16 per me era una tappa fondamentale fin dalla presentazione alla stagione per alzare il livello di rendimento di questa squadra in prospettiva al campionato italiano. Lo ribadisco ad oggi, posso dire che il fatto di dover giocare ancora 12 partite proiettate su 3 mesi e mezzo, quelli che restano alla fine della top 16 di Eurolega, potrebbe rappresentare un vantaggio per noi, ma solo nella prospettiva di essere incursori, ovvero di andare a rompere le uova nel paniere a qualcuno, più difficilmente ambire al passaggio di turno, che mi sembra scontato essere dominio delle 4 grandi che fanno parte del nostro girone. Quindi rimanete underdog. Grazie Luca Vanchi. A voi, buona giornata. Ciao. Luca da Modena invece. Rimaniamo su Luca. Luca da Modena, buongiorno. Dica. Io sono contento per Seedorf al Milan. Sì. Perché secondo me è stato uno dei più grandi, più belli e più intelligenti giocatori di questi anni. L'unica titubanza è l'inesperienza. E vedo che ad esempio al Torino Ventura sta facendo una grande stagione, la Lazio ha richiamato Reia, il Bologna Ballardini. Mi sembra che per una squadra di pochi fenomeni, di pochi campioni, ci voglia un allenatore con un po' più di esperienza. Perché se prendiamo la Juve o la Fiorentina, sono giovani, Montella e Conte, ma le squadre non sono certo il Milan, ecco. Sì, certamente Seedorf inizia dal tetto, no? La sua carriera da allenatore, però siamo di fronte a un giocatore, come diceva lei, sui generis, quindi un giocatore è stato ed è un giocatore, insomma, non so se usare passato o presente, però comunque è un personaggio che di grande carisma, è un personaggio che è sempre stato, ne parlavamo anche ieri, no? Quello che interrompeva l'allenamento e rimbrottava l'Allegri di turno, quindi io credo che abbia queste doti. Poi è chiaro, è una scelta estrema questa, però d'altra parte al Milan insomma, non è nemmeno la prima di scelte estreme. Quella originale, di Original One, fu la chiamata di Arrigo Sacchi, Carneade, cui venne messa in mano una macchina che poi ha vinto tutto grazie anche ad Arrigo Sacchi. Io sono molto intrigato dall'arrivo di Seedorf personalmente. Domani sarà San Siro, sono curioso anche di sentire quali saranno le sue parole. Lo scopriremo. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Tutti convocati domani dopo il GR delle 2. Tutti convocati.